Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, una trasmissione, come ci piace dire, animalista, antispecista e vegan. Siamo arrivati alla puntata numero 503, nella quale parleremo di un nuovo modo di intendere l'animalità, di incidenti per niente fantozziani, tigri umiliate e ragazzine che potrebbero salvare il mondo. Speriamo di avervi incuriosito. Cominciamo questa puntata parlando di caccia. Apertura della caccia. Quest'anno, travolto dall'implacabile Filini, sempre assatanato da nuove tragiche iniziative, anche Fantozzi ha deciso di parteciparvi. Abbigliamento di Filini. Berrettone Sherlock Holmes con penna alla Robin Hood, poncio argentino di una sua zia ricca, scarpe da tennis con sopra galosh, carte topografiche e trombone da brigante calabrese. Fantozzi. Berretto bianco alla marinara di sua figlia Mariangela. Giacca penosamente normale stretta in vita da gigantesca cartucciera da mitragliatrice, residuato dalla seconda guerra mondiale, fionda elastica, siero antivipera a tracolla, gabbietta con canarino da richiamo e gatto randagio da riporto, subito fuggito durante le operazioni di partenza. Ah, ma che meraviglia! Ma qui è proprio un paradiso terrestre! Respiri, respiri! È mio, l'ho visto prima, è mio qualunque cosa sia. 620 cacciatori in 14 metri quadri. Dopo 6 minuti il perito industriale Carletti, detto il Leprotto per una malformazione congenita al labbro superiore, si accorse di essere insistentemente guardato. Adoriamo il secondo tragico Fantozzi e in particolare la parodia della caccia, rappresentata come una vera e propria guerra. Gli esiti delle stagioni venatorie, in effetti, producono tristi bollettini di feriti e morti insensati, proprio come quelli delle guerre. La stagione 2018-2019 si era chiusa con 30 morti, 20 cacciatori e 10 passanti. E anche quest'anno la stagione si è aperta e si contano già le prime vittime. Prima dell'apertura ufficiale della caccia, a Gragnano, in Campania, a metà luglio è stato trovato il cadavere di Gaetano Scala, di 67 anni. Sembra che sia morto per un colpo alla testa. Durante una battuta di caccia, gli inquirenti devono stabilire se il colpo è stato sparato da un compagno di battuta oppure se può trattarsi di un suicidio volontario o involontario. Lo citiamo perché si tratta sempre di armi da caccia e di scenari di caccia. Il 13 settembre a Calanginus, in Gallura, in Sardegna, un cercatore di funghi è stato colpito da uno sparo partito da una trappola per cinghiali. La pallottola è piombata come un missile sulla caviglia di un 54enne, Silvio Pruneddu, che stava cercando funghi in compagnia di alcuni amici. Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato un vero e proprio marchingegno, composto da un tubo di ferro modificato e caricato con pallettoni. Gli animali di grossa taglia vengono attratti dalla presenza del cibo, ma appena toccano la pastura scatta la trappola. Un sistema di frodo pericoloso e potenzialmente mortale. Ammesso che si riesca a risalire a questi bracconieri ingegnosi, costoro rischiano una semplice contravvenzione. Il 14 settembre, nei boschi di Pedrinate, a pochi passi dal confine varesino con la Svizzera, un 50enne svizzero è stato ucciso da un colpo di fucile sparato da un suo compagno di caccia. Ancora il 14 settembre un incidente mortale si è verificato nei boschi di Sorico, a cavallo tra le province di Sondrio e Como. Un 53enne valtellinese si è calato in un dirupo per recuperare un cervo abbattuto. Cadendo è stato schiacciato dallo stesso cervo contro la roccia, perdendo la vita. Un suo amico, che era a caccia con lui, di 61 anni, è rimasto ferito in modo grave. Ma la notizia più tragica ci sembra il patricidio involontario che ha compiuto un 34enne di Battipaglia, residente a Postiglione, sempre nel Salernitano, che durante una battuta di caccia ha colpito al basso addome il genitore di 55 anni, uccidendolo. Tutto questo solo alla seconda settimana del calendario venatorio, che, lo ripetiamo, dura 5 mesi. Vi terremo aggiornati, ma se voleste saperne di più, vi suggeriamo il blog www.vittimedellacaccia.org. No, I even think that she stared like you. Used to just stand and stare. I roll her eyes right up to heaven. I think that God just wasn't there. She used to fall down the road. La seconda notizia della settimana la prendiamo dal portale ilmiocaneleggenda.it. Il Regno Unito ha recentemente bocciato il divieto di mangiare carne di cani e gatti. La proposta era arrivata dall'ex segretario del Dipartimento per l'Ambiente, l'Alimentazione e gli Affari Rurali, la Tory, Jill Watling, che ha espresso la sua più profonda delusione nei confronti della decisione del Ministero della Giustizia del Regno Unito. La motivazione che sta alla base di questa bocciatura del divieto sembra che sia la volontà di non offendere le altre culture, in particolare quella cinese. Le critiche alla società cinese per la sua ferocia nei confronti dei cani non ci deve far dimenticare che la nostra società esprime la stessa ferocia nei confronti di tantissimi altri animali. Ogni società, insomma, ogni cultura sembra avere le sue vittime. I privilegi di cui godono gli animali da compagnia nella nostra cultura sono ormai ampiamente messi in discussione da nuovi approcci più egualitari. I maiali, le galline, i vitelli sono tutti, uno per uno, soggetti di una vita, capaci di emozioni, di sentimenti, di desideri, come sa chiunque li abbia conosciuti da vicino. E in tal senso possiamo definirli persone. Persone, individui, diversi tra loro e da noi, ma che desiderano vivere, esattamente come i nostri amatissimi cani e gatti. D'accordo, non siamo abituati a considerare gli altri animali come degli individui, come delle persone. Proprio per questo abbiamo dato avvio a una nuova rubrica quindicinale, curata da Francesco De Giorgio, un esponente di spicco della nuova cultura antispecista, autore del libro Nel nome dell'animalità di cavalli, cani, umani e altri animali. Francesco De Giorgio è uno studioso ma anche un attivista, un amico della nostra redazione ed è capace di far germogliare una differente, calda e appassionata idea di animalità e di coesistenza tra animali umani e non umani. La prima puntata è già andata in onda e la trovate in podcast nel nostro blog restiamoanimali.it. Il passaggio dalle caverne alle civiltà agropastorali ha segnato anche un passaggio in cui l'umanità ha in gran parte perso, o meglio, abbandonato, la propria animalità. La conoscenza del mondo selvaggio, la coesistenza con molte animalità veramente letali, molto più di un orso, la capacità di muoversi su un territorio abitato anche da altri e non solo dagli umani, il dialogo con le proprie paure, ha lasciato spazio al terrore, alle fobie, a quello che veniva considerato l'oscuro male del mondo al di là delle prime recinzioni, dei primi recinti. Finanche lo specismo si è nutrito proprio della paura del selvaggio, perché esso non viene rappresentato solo dallo sfruttamento di altre specie, ma anche dal distanziarsi da molte altre specie, quelle che scuotono le nostre sicurezze, le nostre certezze, il nostro pensarci unici ed eletti, e mettere tutto questo in discussione. E smarrendo la nostra animalità, ecco che un orso diventa pericoloso, che un lupo diventa problematico, che un cinghiale diventa nocivo. E tutto questo fardello emotivo viene messo nelle mani di quelle politiche che hanno fatto la loro fortuna su quelle psicosi che sorgono per una mancanza di cultura animale, di cultura dell'incontro con l'altro, anche se molto diverso, anche se molto selvatico, anche quando ci mette in discussione. E la gestione viene messa in protocolli che trasformano gli animali in numeri, in oggetti, in etichette, incontrollabili sistemi, non solo nello sfruttamento agroalimentare degli animali cosiddetti domestici, ma anche nella gestione di quel mondo ricco in soggettività genericamente identificate come fauna selvatica. Ma qual è il mondo di percezione di un orso, o meglio, di quell'orso che si è deciso di catturare o uccidere? Qual è il patrimonio sociocognitivo e le valenze affiliative di una famiglia di lupi, quella famiglia, da cui si decide di prelevare, quindi di rinchiudere o uccidere qualcuno dei membri. Di questo nulla si sa, ma peggio, nulla si tiene conto e le parole chiave contro l'animalità diventano gestione, prelievo, selezione, sostenibilità. Ma la domanda vera alla fine è: sostenibile per chi? Oh, all'animalità selvatica la ricetta di oggi, curata dal nostro fedelissimo tosco vegan chef Gabriele Palloni all'interno del suo spazio etico-gastronomico che abbiamo battezzato Il Pasto Gentile. Ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro La cucina regionale italiana vegana, casa editrice Newton Compton. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Siamo un po' alle porte coi sassi, come si usa dire in zona mia, ma giusto l'altra settimana, andando per boschi a far funghi, ho avuto l'opportunità di raccogliere qualche cima di ortica. Solitamente si raccolgono le foglie più morbide fra aprile e settembre, ma con un po' di fortuna ancora la si può trovare. Questa pianta selvatica, famosa per i suoi effetti collaterali, può rappresentare una vera prelibatezza se raccolta con attenzione. Oggi ve la propongo così, in una veste un po' meno selvaggia. Gli ingredienti per 4 persone per lo sformatino di ortica in crosta sono 300 g di cime di ortica, uno spicchio di aglio, mezzo litro di brodo vegetale o latte di soia, 20 ml di olio extravergine di oliva, 30 ml di olio di semi di girasole, 60 g di farina, 20 g di farina di ceci, sale e pepe, un pizzico di curcuma in polvere, un pizzico di noce moscata, 4 fette di pane a cassetta integrale e un cucchiaio di noci tritate. Lasciate l'ortica in ammollo in acqua senza toccarla con le mani, altrimenti premunitevi indossando dei guanti di gomma. Scolate e sciacquate, quindi fatela bollire per 10 minuti in acqua leggermente salata. Scolatela e tritate al coltello. Infine fate rosolare in padella con olio extravergine e l'aglio tritato finemente, aggiustando di sale e pepe. A parte sciogliete la farina nei due tipi di olio, aggiungete della noce moscata e la curcuma e fate tostare per pochi minuti facendo attenzione a non bruciare la farina. A questo punto, mescolando con una frusta, aggiungete il brodo vegetale caldo o il latte di soia e fate addensare. Stemperate la farina di ceci con poca acqua e unitela alla besciamella. Lasciate ancora un minuto sul fuoco, quindi unite le ortiche e mescolate bene. Tagliate i bordi del pane a cassetta e schiacciatelo con un mattarello. Foderate uno stampino monodose con ogni fetta di pane, quindi riempite con l'impasto di ortiche. Fate cuocere in forno ventilato a 180 gradi per 25 minuti. Lasciate intiepidire e sformate. Servite con un filo di olio e della granella di noci tostate. You fell for me. Alcune puntate fa seguimmo con trepidazione la traversata oceanica della giovane attivista svedese per il clima Greta Thunberg, che ha voluto raggiungere in barca a vela a impatto zero il vertice ONU sul clima alle Nazioni Unite di New York, dove era stata invitata. Il vertice si è appena concluso e poiché i cambiamenti climatici e le estinzioni di massa hanno come vittime soprattutto animali non umani, pensiamo che sia importante leggere il discorso con cui Greta si è rivolta ai leader mondiali per denunciare la loro inerzia. Sentiamola. Il mio messaggio è che vi terremo d'occhio. Tutto questo è sbagliato, io non dovrei essere qui, dovrei essere a scuola, dall'altro lato dell'oceano. Eppure voi venite a chiedere la speranza a noi giovani. Come vi permettete? Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote. Eppure io sono tra i più fortunati. Le persone stanno soffrendo, le persone stanno morendo, interi ecosistemi stanno collassando. Siamo all'inizio di un'estinzione di massa e tutto ciò di cui parlate sono soldi e favole di un'eterna crescita economica. Come vi permettete? Per più di 30 anni la scienza è stata cristallina. Come osate continuare a distogliere lo sguardo e venire qui a dire che state facendo abbastanza, quando la politica e le soluzioni necessarie non si vedono ancora? Dite di ascoltarci e di capire l'urgenza. Ma non importa quanto io sia triste e arrabbiata, io non voglio crederlo, perché se voi davvero capiste la situazione e continuaste a non agire, allora sareste malvagi e io mi rifiuto di crederlo. Ci state deludendo, ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento. Gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi e se sceglierete di fallire, noi non vi perdoneremo mai. Non vi lasceremo andare via così. Proprio qui, adesso, è dove tracciamo la linea. Il mondo si sta svegliando e il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no. Il mio messaggio è che vi teniamo gli occhi addosso. We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis, and we need to call it what it is, an emergency. We must acknowledge that we do not have the situation under control and that we don't have all the solutions yet, unless those solutions mean that we simply stop doing certain things. We must admit that we are losing this battle. We have to acknowledge that the older generations have failed. All political movements in their present form have failed. But Homo sapiens have not yet failed. Yes, we are failing, but there is still time to turn everything around. We can still fix this. We still have everything in our own hands. But unless we recognize the overall failures of our current systems, we most probably don't stand a chance. We are facing a disaster of unspoken sufferings for enormous amounts of people. And now is not the time for speaking politely or focusing on what we can or cannot say. Now is the time to speak clearly. Solving the climate crisis is the greatest and most complex challenge that Homo sapiens have ever faced. The main solution, however, is so simple that even a small child can understand it. We have to stop our emissions of greenhouse gases. And either we do that or we don't. You say that nothing in life is black or white, but that is a lie, a very dangerous lie. Either we prevent a 1.5 degree of warming, or we don't. Either we avoid setting off that irreversible chain reaction beyond human control, or we don't. Either we choose to go on as our civilization, or we don't. That is as black or white as it gets. L'ultima notizia della settimana la prendiamo dal sito internet dell'associazione LAV, Lega Antivivisezione, una delle principali organizzazioni animaliste attive nel nostro paese. Torniamo a parlarvi delle 8 tigri balzate agli onori della cronaca lo scorso luglio per la morte del domatore Ettore Weber durante un addestramento finito decisamente male anche per lui. Le 8 tigri, oltre a essere state divise in 2 gruppi di 4, verranno vendute all'estero dove non vi sono le stesse tutele penali nei confronti degli animali e per loro si prospetta un incubo infinito, catapultate come saranno nuovamente all'interno di gabbie con quotidiane sessioni di allenamento e in un continuo stato di umiliazione. La notizia della loro vendita sgomenta soprattutto alla luce del fatto che l'associazione LAV aveva costruttivamente proposto di spostare le 8 tigri a Prima Domus, un centro specializzato che si trova in Spagna, vicino ad Alicante, dove le tigri avrebbero potuto vivere in spazi adeguati, non sfruttate e finalmente libere da una vita di umiliazioni e di ridicolizzazioni. Una soluzione per la quale, assieme all'associazione olandese APP, Animal Advocacy and Protection, la LAV si era offerta di farsi carico di ogni spesa necessaria per il trasferimento e il mantenimento a vita delle 8 tigri. Alla luce di questo, la LAV chiede al nuovo governo, al neo incaricato ministro Franceschini, che tra l'altro iniziò questo percorso durante il governo Renzi e poi il governo Gentiloni e al Senato, l'approvazione della legge delega e del relativo decreto legislativo per la completa dismissione degli animali dai circhi. E la redazione di Restiamo Animali non può che essere d'accordo con una completa, definitiva e improcrastinabile dismissione degli animali dai circhi. In chiusura, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 504 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.